Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Don't believe it's been slitting my throat, it's all I have. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Ho scelto una delle mie canzoni preferite, Other Side, dei Red Hot Chili Peppers, per parlarvi di questo romanzo. Un romanzo che va letto tutto d'un fiato, come dice il titolo stesso, Apnea. È un romanzo che, quando lo si legge veramente per le prime 40 pagine, si ha quasi un attacco di panico, insomma, manca il fiato, perché è una storia vera. Ed è una storia raccontata in modo molto ritmato ed è una storia drammatica. È la storia di Lorenzo Amorri, che per la prima volta si dedica alla scrittura. Lui è stato un musicista, adesso ha scritto questo romanzo che si chiama Apnea, pubblicato da Fandango. È la storia della sua vita, di quando a 27 anni, mentre andava normalmente sugli sci, ha un incidente e diventa tetraplegico. Oggi di anni ne ha più di 40 e ha, come dire, il coraggio di guardarsi indietro e di raccontare quell'episodio, ma soprattutto la storia di una rinascita. Dicevo che Apnea lo si legge proprio con il fiato sospeso, perché insomma le prime 40 pagine sono la descrizione dei mesi che seguono l'incidente, quindi il dolore fisico, le terapie a cui viene sottoposto. Viene portato dall'Italia in una clinica in Svizzera per il recupero, per la fisioterapia, e Amorri descrive tutte queste cose con una scrittura veramente pulita, incisiva, molto molto ritmata, come dicevo prima. E allora gli ho chiesto perché ha scelto questo tipo di scrittura per raccontarci la sua storia. Sentiamolo. Intanto io ho usato il presente perché trovo che sia la forma più adatta a far entrare il lettore completamente dentro una storia e immediatamente. Poi, insomma, sono partito dai ricordi che avevo. I ricordi, solo quello che mi ricordavo, nel senso che non ho mai chiesto a nessuno, anche se sapevo, no? Magari cose che mi avevano raccontato, ho deciso di raccontare invece proprio il mio punto di vista, quindi il momento di quando ho avuto l'incidente è esattamente come io lo descrivo nel libro. Non ricordo nulla, nient'altro che quello, che a un certo punto ero con la faccia nella neve e non riuscivo a respirare, e ho sentito qualcuno che mi toccava, mi girava la testa e respiravo di nuovo. E l'approccio alla scrittura è iniziato come un gioco, nel senso che ho aperto un blog e ho cominciato a scrivere di disabilità, con ironia chiaramente, raccontando anche fatti, insomma, importanti, veri e anche tragici in certi casi, però sempre con una ironia e il sarcasmo, perché poi io ce l'ho nel DNA, insomma, fa parte della mia famiglia. E lì piano piano poi ho cominciato a scrivere racconti, alla fine più che altro spinto da una mia amica scrittrice che è Pulsatilla, alla quale mandavo i miei racconti. Un giorno mi ha detto: no, fermati, questi racconti sono molto belli, ma c'è materiale per un romanzo. Lei mi ha convinto e sono andato avanti. Poi, come puoi immaginare, non è stato semplice scriverlo, perché insomma erano già 14 anni che avevo avuto l'incidente e ci avevo fatto i conti, ovviamente. E questo libro in qualche modo ti ha riaperto anche delle ferite, perché insomma usi l'ironia, anche il sarcasmo a volte, ma c'è moltissimo dolore, c'è la descrizione anche e soprattutto di un dolore fisico che uno non immagina. Le prime appunto 40-50 pagine sono la descrizione delle tue sofferenze nei primi 6 mesi, diciamo 5-6 mesi dopo l'incidente. In che modo le hai volute descrivere? Ma guarda, il libro è chiaramente diviso in 3 parti, è diviso nel corpo, la mente e l'anima alla fine. Il corpo andava raccontato così com'era, perché all'inizio tu non è che stai lì a pensare e a prendere coscienza, perché non è il momento ancora, ci vuole la coscienza, deve diluire, insomma, anzi l'incoscienza forse deve diluire e nascondere alla coscienza quello che è successo, perché sarebbe troppo da accettare tutto insieme, insomma. Quindi piano piano tu, la coscienza viene dopo, quindi all'inizio tutta la parte medica è tutto corpo, è tutto dolore, perché io

tenendo la torta di fango in una mano e nell'altra una sporta piena di uova fresche e prezzemolo, miserabile viatico di ringraziamento. Maria, sorridendo, intuiva che da qualche parte avrebbe dovuto esserci un motivo per piangere, ma non riuscì a farselo venire in mente. Si perse anche i ricordi della faccia di sua madre mentre lei si allontanava, quasi se la fosse scordata già da tempo, nel momento misterioso in cui le figlie bambine decidono da sole cosa è meglio impastare dentro il fango delle torte. Per anni ricordò invece il cielo caldo e i piedi di zia Bonaria nei sandali, uno che usciva e uno che si nascondeva sotto l'orlo della gonna nera in un ballo muto di cui a fatica le gambe seguivano il ritmo. Zia Bonaria le diede un letto solo suo e una camera piena di santi, tutti cattivi. Lì Maria capì che il paradiso non era un posto per bambini. È il momento di salutarvi. Vi ricordo che questa edizione particolare del Cacciatore di Libri, Parole e Musica va in onda ogni sabato alle 16. Il Cacciatore di Libri versione standard rimane come sempre il sabato alle 6.45 per chi si sveglia presto e alle 21.05 invece per chi ha degli orari più normali, diciamo così. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.